ricordo più bene, una formalità. È una questione di qualità, è una questione di qualità, è una questione di qualità. Ho una formalità, non ricordo più bene, una formalità. Come decidere di alzare i capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di far la fida con qualcuno o qualcosa. Anzitutto siamo on air grazie a infrastrutture digitali autonome, nello specifico messa a disposizione dall'Hack Lab di Unit, e siamo on air contemporaneamente sia su Radio Lotto tutto l'anno sia su Radio Virus, incredibile. Allora, prima informazione di servizio imprescindibile. Come sappiamo, per molte donne stare a casa non è affatto un'indicazione rassicurante. Quindi ringraziamo la rete Dire che sta garantendo l'attività delle case d'accoglienza, incrociando difficoltà enormi, e segnaliamo subito il numero su Milano che si riferisce al CADMI, che è 02 55 01 55 19. Inoltre segnaliamo il canale Telegram di Obiezione Respinta, che segnala gli ospedali dove si continua a garantire l'interruzione volontaria di gravidanza nonostante l'emergenza. t.me/aborto_emergenza-covid-19. Infine, vi invitiamo a contribuire alla radio inviando i vostri audio sulla quarantena, sul lavoro in quarantena, sull'amore in quarantena o sull'odio in quarantena, alla mail di Non Una di Meno Milano, che è nonunadimenomilano@gmail.com. E di seguirci sui nostri canali, che sono Non Una di Meno Milano con un trattino e mezzo o un puntino e mezzo a seconda del social network. Madonna, che schifo che ho fatto, Madonna. Ah, vabbè. Mi sono svegliata con un mal di testa, Madonna che festa. Peccato che il pirla mi ha detto di tornare a dormire a casa mia, che tristezza, non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta, ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto e il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo. Sola, sola, non mi ricordo a che ora. Nella notte buia, io non ho paura. Anche se la sera guardo giù per terra, perché sai, non sembra, ma qui c'è una guerra. Non è che temo gli indiani oppure i rumeni, quelli che dormono per strada il più delle volte sono i più sereni. A volte li fermano i carabinieri, ma se fermano me, che ho bevuto non proprio del tè. Magari son bionda e parla inglese e son cazzi amari, cazzi in divisa, oh cazzo che sfiga. Questa è l'Italia che odia l'indiano che mette benzina. Buongiorno signorina, ma quanto sei bella. Michelle, lascia, mancia, cosa fai stasera? Ti darò un morso, sembra una mela. Aggiungo cannella, un poco di zucchero, butto in padella. Piacere Mandela. Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Pechino, Lima, Lubiana, da Gioia Tauro, vai in Guatemala. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Brasilia, Copacabana, cena a Milano, dormi a Tijuana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Mi fermo un momento, guardo il cielo. Quanto sei bella. Michelle, lascia, mancia, cosa fai stasera? Ti darò un morso, sembra una mela. Aggiungo cannella, un poco di zucchero, butto in padella. Piacere Mandela. Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Pechino, Lima, Lubiana. Allora, comincerò leggendo una lettera che è stata pubblicata su Comune Info alcuni giorni fa, perché secondo me aiuta a introdurre il tema della serata. È la lettera di Sabina Minuto, un'insegnante di lettere dell'IPSIA di Savona. Lei dice: parliamo di cosa c'era e ora di cosa c'è. C'era il luogo, per eccellenza, la scuola dove si passano ore con i ragazzi. C'era l'incontro, lo sguardo, il rincorrere nei corridoi, la pacca sulla spalla, la lezione con le consulenze individuali, lettura ad alta voce. C'era un mondo, il mondo in cui si tesse una trama che tiene in piedi la vita di una comunità educante. Tutto questo è sparito. Dopo la botta iniziale, ognuno di noi ha cercato di risolvere il problema come poteva. Ognuno con coraggio ha affrontato con i suoi strumenti la situazione. Parlo di colleghi e degli alunni, ma quali strumenti? Non è scontato che tutti li abbiano e che tutti li sappiano usare. Non lo è per nulla. I miei studenti inciampano in problemi banali, magari, ma macigni in effetti. E allora? Come devo impiegare il tempo della mia didattica? E soprattutto che didattica devo fare? Non abbiamo piattaforme. Abbiamo un registro online. Io non amo questo modo di lavorare. Le piattaforme alla fine si riducono a carica compiti, scarica compiti, carica lezioni, scarica lezioni. Pochi sono in grado di farle funzionare a dovere. La didattica rimane inevitabilmente solo frontale e trasmissiva, e questo a me non piace. Allora ho pensato ad altro, alle videochiamate, a un canale podcast per condividere racconti e poesie, a qualche applicativo facile anche da cellulare. Ho provato a mantenere una routine, non dico quotidiana, ma quasi. Le routine rafforzano sempre l'apprendimento. Ma cosa succede? Succede che i ragazzi non reggono, e nemmeno noi adulti, perché questa iperconnessione perenne è incredibilmente faticosa. Scopriamo infatti che usare chat per gli affari propri è un conto, ma usarle per tenere viva una classe di 26 studenti è ben altro. Ecco, questa lettera per me è molto bella perché apre diverse questioni sulla didattica online che potremmo riassumere, diciamo, in quattro punti. Il primo sicuramente è quello dell'accesso, no? Cioè che infrastruttura abbiamo, ma anche che formazione digitale abbiamo. Il secondo punto potrebbe essere riassunto in quali strumenti stiamo adottando, no? Che piattaforme le scuole, le università stanno usando, di chi sono i dati e con quale policy. Il terzo punto potrebbe essere la mole di lavoro in aumento, no? In molte delle testimonianze che sentiremo in questa puntata si parla di un aumento del lavoro, no? E quindi chi pagherà questo aspetto, come ci si sta organizzando e che problemi differenziati si stanno producendo all'interno delle case di chi appunto fa le lezioni online. Infine, l'ultimo punto potrebbe essere sintetizzato con quali relazioni si danno all'interno del digitale, cioè come si riformula la didattica, da una parte per non tornare indietro di 50 anni a rapporti, no, frontali e senza discussione, e dall'altra è anche rispetto alla lettera che abbiamo appena letto, cioè questa domanda intorno al basta caricare e scaricare compiti, o c'è bisogno invece di pensare con la crisi, dentro la crisi, attraverso la pandemia, no? Nuove forme e nuove metodologie. Io partirei adesso con la prima testimonianza di una docente universitaria. Dunque, la mia posizione sulla didattica online, insegno a livello universitario, prevalentemente nei corsi di master, specialisti, specializzazioni, corsi di laurea magistrale. E diciamo che la mia posizione si deve distinguere su due fronti diversi: la possibilità che ho io, individuale, di permettermi le ore di insegnamento, come mi approccio alla didattica online da un lato, dall'altro l'oggettivo problema legato all'impreparazione tecnologica di alcuni atenei. Quindi partiamo, diciamo, dalla mia esperienza personale. Credo sia utile che io premetta essere un docente che ama l'interazione con gli studenti, ovvero non sono più quel tipo di professore che fa la lezione ex cattedra, ma pur ritenendo che sia necessario ovviamente dare elementi essenziali ovviamente durante ogni lezione, e che quindi spetta a me inizialmente proporre agli studenti le tematiche della lezione, è anche vero che amo molto appunto l'interazione con gli studenti, la discussione, non in tutte le lezioni, ovviamente dipende anche dai temi, alcuni temi sono più scottanti, tenete conto che io insegno discipline filosofico-giuridiche e filosofico-politiche, quindi alcuni temi possono essere più scottanti che a cui fanno seguito grandi dibattiti in classe, e questo permette anche a me sempre di arricchire la lezione con degli spunti o degli elementi che magari preparando la lezione non avevo pensato. Ecco, proprio dicendo preparando la lezione, sono ancora un insegnante, un professore di quelli che usa ancora la lavagna e non il PowerPoint, e anche questo sicuramente mi ha svantaggiato nella didattica, chiamiamola così, 2.0, uno svantaggio invece che non ho mai provato nei 12-13 anni e più che insegna la lavagna e che insegna all'università, visto che ormai siamo sottoposti a valutazioni di qualsiasi tipo, oltre ad aver ottenuto sempre ottime valutazioni dai miei studenti, nella parte libera in cui possono dire quali sono pregi e difetti, il pregio finiva sempre per essere quello che non utilizzavo appunto i nuovi metodi di didattica, ma continuavo in qualche modo a utilizzare lavagna, gesso e soprattutto interazione con loro più che utilizzo del PowerPoint e delle slide. Quindi ecco, è chiaro che una didattica come la mia, quindi dal punto di vista personale, si è trovata spiazzata di fronte a uno schermo bianco, chiamiamolo così, o quantomeno con la mia faccia e senza nessuno davanti, i cui occhi mi servono sempre da indicatore delle mie capacità di spiegazione, delle mie capacità di interessare gli studenti e così via. Quindi sicuramente c'è stato una grande delusione per me nell'approcciare la didattica online. In più, ovviamente, come per molti di noi a cui è stato proposto lo smart work in tempi di emergenza coronavirus, con bambini a casa è stato, quantomeno nel mio caso, impossibile fare la didattica in sincronica, ma insomma ho fatto quella diacronica, ovvero mi registravo quando i bambini erano, diciamo così, in altre stanze, soprattutto nel caso di bambini piccoli, e quindi avevo il tempo di registrarmi e poi caricare online le mie lezioni. Quindi non ho mai provato ancora la didattica online in diretta. Poi ci sono le nuove tecnologie e anche, e qui sì, c'è anche un altro bel divario, le capacità della rete delle case in cui ci troviamo. Bene, rispetto ad alcuni miei colleghi, ho scoperto che il mio fornitore di rete internet è molto peggiore di tutti quegli altri e quindi ho una pessima connessione. Questo sicuramente, diciamo, mi ha di certo indebolito la mia capacità di lavorare bene con le nuove tecnologie. Quindi questo rete casalinga che mi discrimina, diciamo così, da altre reti casalinghe di miei colleghi migliori delle mie, che quindi riescono a caricare in 30 minuti un video, una video lezione appunto non fatta in diretta, quando a me invece normalmente ci vogliono almeno 12 ore. Infine, era pronto l'Ateneo con le nuove tecnologie? Beh, dipende da Ateneo a Ateneo. Per quello che mi sono trovato io ad utilizzare, assolutamente non all'altezza. Diciamo così, sarebbe stato molto meglio lasciarci a ognuno di noi utilizzare le possibilità video dei nostri computer, piuttosto che, almeno nel caso del mio Ateneo, propinarci i loro sistemi e obbligandoci a caricare solo i video, diciamo così, il rettore considererà come ore di lezione solo quei video fatti attraverso la tecnologia fornitaci dall'Ateneo. Quindi io non posso usare QuickTime per capirsi o un qualsiasi altro sistema di videoregistrazione del mio computer, perché se carico quello non vale, diciamo, ai fini del riconoscimento del mio aver fatto lezione. Quindi, obbligata a usare le tecnologie dell'università, piano piano ho dovuto fare i conti con i limiti di tale nuove tecnologie. Il maggior limite è che il sistema che mi è fornito dal mio Ateneo produce sostanzialmente quasi tutti video danneggiati e questo impedisce poi il caricamento del video stesso. Quindi dicevamo, il primo punto è una questione d'accesso, no? Si è passati alla didattica online, sembra, senza tener conto della ancora profonda disuguaglianza di accesso a internet, come anche a computer o dispositivi che permettono la fruizione di queste piattaforme digitali con cui le scuole appunto stanno facendo la didattica a distanza. A Milano, per esempio, il 79% degli abitanti è coperto da banda larga, mentre la media lombarda è inferiore al 50%. Ma guardiamo i dati nazionali. Parlo, come ho già detto lunedì scorso, di dati perché mi sembra aiutino a vedere quello che non c'è, no? Allora, i dati Istat sull'accesso alla rete in Italia evidenziano come ancora un quarto delle famiglie sia senza accesso a internet e più di una famiglia su due non ce l'ha perché non sa usarlo. Tra le famiglie resta quindi un forte divario da ricondurre soprattutto a fattori generazionali e culturali. Un altro fattore discriminante è sicuramente infatti il titolo di studio. Come dicevamo, più di una famiglia su due non ha internet perché non sa utilizzarlo, ovvero il 58% delle famiglie, senza accesso a internet e più di un quinto, il 21%, non lo considera uno strumento utile e interessante. Permangono inoltre altri divari sociali sull'uso del web, per esempio a livello geografico permane un forte squilibrio tra nord e sud, comprese le isole, quindi il 72,3% al nord contro il 62% al sud di accesso alla rete. Sono un insegnante di storia e filosofia al liceo, insegno diversi indirizzi da scienze umane al liceo scientifico e i primi effetti della quarantena è aver sentito immediatamente la mancanza della relazione con gli studenti, aver avvertito quanto la presenza, l'essere lì coi corpi sia importante, il guardarsi, l'entrare in una immediata relazione. L'altro elemento che mi è risaltato immediatamente in questi giorni è una sorta di discesa all'essenziale, quanto poco importante sia tutto quello che della didattica ruota intorno alla valutazione, all'assegnazione dei voti e quanto invece viene in questo momento, almeno per la mia esperienza personale, al centro della questione della pratica dell'insegnamento, la relazione umana attraverso gli strumenti della conoscenza. Quanto quello che facciamo in classe tutti i giorni, in quella comunità che viene a formarsi, dia a ognuno di noi, a ognuna di noi, gli strumenti per capire il reale, per capire il mondo intorno a noi. La didattica online è sicuramente uno strumento utile se è pensato come supporto alla didattica ordinaria, ma anche qui quello che è emerso è che questa generazione, compresa quella nostra, dei docenti, era completamente impreparata, almeno nell'area geografica e sociale dove io vivo, che è Napoli, la provincia di Napoli. C'è una impossibilità da parte di tante colleghe di accedere alla didattica online perché si ritrovano a casa con i figli, con i mariti disoccupati, per cui con il carico di cura che viene a investirle, molti ragazzi non hanno accesso alla strumentazione. Abbiamo scoperto che questa generazione detta 2.0 in realtà è passivizzata dinanzi agli strumenti che ha, che è il telefonino sostanzialmente, questa protesi a cui siamo tutti quanti abituati in classe a vedere maneggiare, in realtà li ha completamente passivizzati, sono in panico nell'interagire dovendo lavorare con strumenti digitali. Eppure potrebbe essere questa un'occasione, se noi sapessimo utilizzare questa strumentazione, ad esempio per lavorare sulla capacità di autonomia degli e delle studenti e se noi fossimo capaci di lavorare su tutte quelle pratiche cooperative, le piattaforme, specialmente nei contesti dove si cerca di praticare il Creative Commons o l'autonomia digitale, questi sono strumenti utilissimi. Io credo che almeno la riflessione che faccio io e la crisi che sto attraversando è relativa all'utilizzo che faccio dei saperi, quanto la storia e la filosofia siano utili in questo momento a capire la dinamica in cui ci troviamo, quanto questi strumenti permettono a me stesso e al gruppo classe con cui mi trovo a lavorare di farci divenire soggetti consapevoli. Ecco, se prima ero in crisi rispetto alla didattica tradizionale, oggi lo sono ancora di più perché mi rendo conto del grande limite in cui è imbrigliata la didattica quotidiana. Dovrebbe servire molto più alla vita anziché mettere la vita al servizio di saperi alienanti. Allora, continuerei ancora un paio di minuti con i dati, anche a partire da quest'ultimo intervento e l'accesso o l'uso dei dispositivi. Quindi, cosa sappiamo rispetto alla dotazione di device o computer mobili o fissi? Nell'ultimo anno si sa che che aumentano i computer mobili, che nel 2018 sono 14.600.000 e crescono anche le famiglie che ne hanno almeno uno. che sono il 48,4% del totale. Rimane fermo invece a 5.700.000 il numero di computer fissi presenti nelle case degli italiani, ma si riduce invece la quota di famiglie che ne possiede almeno uno. Era il 22% circa nel 2017 ed è il 21% nel 2018. Allora, mi sembra che questi dati ci indicano che se non investiamo un po' le nostre energie nell'analizzare, no, l'infrastruttura digitale del nostro paese, non riusciremo a garantire un'educazione digitale uguale per tutti. Quindi, prima di lanciarci alla ricerca della miglior soluzione high-tech, bisogna pensare a quanti bambini e bambine non hanno ancora accesso agli strumenti che dovrebbero appunto garantire questa educazione, questa smart schooling, come viene definita. Inoltre, questo contesto è aggravato dal fatto che di fianco allo smart schooling, appunto, c'è lo smart working, che quindi le famiglie si devono anche dividere questi pochi device a disposizione, litigando spesso sugli orari fissati da istituzioni come quelle scolastiche o dal capo di lavoro, che ovviamente non comunicano. Quindi diciamo che in queste condizioni è davvero complicato conciliare il lavoro agile e la formazione a distanza, scusatemi. The July fly went sideways over the long grass. His wings made a burr about him like a net, beating so fast they wrapped him round with a cloud. Every now and then, as he flew over the trees and grass, a taller one than common stopped him, and there he clung. And then the eye had time to see the scarlet spots, the loveliest colour on his wings. Allora, io sono in una situazione lavorativa un po' particolare, nel senso che ho un contratto di collaborazione occasionale prolungata con delle cooperative. Le cooperative lavorano con dei bandi nelle scuole statali e quindi io faccio dei laboratori, dei corsi e delle lezioni. E quest'anno ho lavorato principalmente in scuole primarie, quindi elementari, e da quando è scattata l'emergenza sono stata completamente senza lavoro le prime 2 settimane. Adesso con molta calma qualcosa è passato online, però insomma i problemi più grossi sono che insegnando io italiano a stranieri ci sono molte situazioni di disagio tra i ragazzi a cui insegno. E quindi non tutti sono riusciti a passare alle lezioni online. Ci sono alcune famiglie che non sono dotate di tutte le tecnologie per affrontare questi cambiamenti, per cui ho dei bambini e delle bambine che ascoltano le lezioni giusto per poche ore al giorno, facendosi prestare il cellulare da mamma o papà, quindi insomma non in condizioni adeguate, anzi possiamo dire che sono praticamente un po' abbandonati a se stessi. Quindi vabbè, la mia paura è sempre un po' la solita, che queste categorie un po' più emarginate al rientro a scuola lo saranno ancora di più perché non saranno riuscite a stare ai tempi e avranno avuto meno mezzi per, diciamo, seguire tutto quello che veniva proposto. Ovviamente poi, i corsi e i laboratori, di italiano per stranieri non sono stati considerati come essenziali in questa fase, quindi ovviamente si dà precedenza, alle materie tradizionali, quindi certo gli si insegna la geografia, la storia, quando, ancora non hanno un italiano base per poter comunicare. Quindi, come in altri campi, diciamo che le questioni ritenute primarie hanno sempre una base di valore un po' soggettiva e che non sempre rispecchia poi le esigenze. Dunque, sono un'educatrice, lavoro sull'educativa scolastica in un istituto comprensivo qui a Milano, in una zona considerata periferica che è Maciacchini, e con un bacino di utenza abbastanza complesso, composto prevalentemente da famiglie di origine straniera e con un status socio-economico abbastanza complesso. Siamo molte famiglie in stato di povertà. Siamo fermi da quando l'emergenza coronavirus è iniziata e ci ritroviamo nella condizione strana di non poter veder retribuito il nostro lavoro perché le ore di educativa scolastica vengono pagate dalla scuola sulle ore effettive realizzate su ogni studente. E la nostra cooperativa ha attivato un fondo integrativo salariale che dovrebbe coprire fino all'80% del nostro salario, ma non si sa che succederà anche perché questo non vale per i neoassunti e non abbiamo risposte certe da questo punto di vista. Io, per esempio, sono una neoassunta perché ho cominciato a ottobre e questo chiaramente comporta tutta una serie di preoccupazioni e problematiche derivanti dal fatto che siamo preoccupate, non riusciamo a sapere se e come potremo essere retribuite, quindi tutte le nostre spese domestiche, di vita, la gestione della famiglia. E ci fa stare molto male, molto preoccupate. A questo si aggiunge il fatto che gli studenti che seguiamo a scuola ci mancano e noi sicuramente manchiamo a loro. Il nostro è un lavoro ad alto contatto ed è un lavoro di relazione, è un lavoro che si basa sulla relazione d'aiuto, sul conforto, sulle emozioni, sulla gestione delle emozioni, il raccordo tra scuola e famiglia, il raccordo tra le relazioni con i compagni, il raccordo con il lavoro con gli insegnanti, insomma tutto il gruppo classe. nonostante nell'ultimo decreto siano uscite delle direttive molto chiare rispetto al lavoro degli educatori e delle educatrici che possono seguire gli studenti anche a distanza, anche se questo non sappiamo bene che cosa vuol dire, perché appunto questo è un lavoro ad alto contatto, quindi bisognerebbe assolutamente reinventarsi anche delle procedure, e per quello insomma ci incontriamo in supervisione su Skype con le colleghe, con la psicologa, con la nostra cooperativa, si cerca di mettere in piedi una metodologia nuova che nessuno ha mai sperimentato prima, quindi ci ritroviamo di fronte a un ventaglio di possibilità che per certi versi è addirittura entusiasmante, se solo poi potessimo provare a sperimentarle, perché in realtà la scuola, in particolare la nostra scuola, non ci ha dato il consenso di contattare le famiglie, nonostante ci sia un decreto che lo renda possibile. Questo perché attendono che l'assessorato all'istruzione del Comune di Milano, recependo questo decreto, dia poi mandato alle scuole di mettere gli operatori in condizioni di lavorare. Alcune scuole stanno già agendo, dando appunto il mandato agli educatori di entrare in contatto con le famiglie, alcune scuole come la nostra vuole aspettare l'ufficialità del comune, che in questo momento è oberato da tutta un'altra serie di problematiche, e quindi noi stiamo nel mezzo con un carico enorme che è quello economico, e da una parte, e dall'altro con la consapevolezza che alcuni dei nostri studenti non se la passano affatto bene, perché avevano famiglie complesse che spesso non si rendevano conto delle problematiche dei loro figli, delle specificità dei bisogni dei loro figli, perché non ne hanno le competenze culturali, perché non ne hanno il tempo, perché lavorano 12 ore al giorno, perché non hanno competenze linguistiche per poter dialogare con i medici, e quindi sappiamo per certo sappiamo che alcuni dei nostri bambini non se la stanno passando bene, e per lo più, come dicevo prima, si tratta di famiglie con gravi difficoltà economiche, e per cui questo amplifica ancora di più la nostra ansia, la nostra preoccupazione, proprio perché sappiamo che non sono seguiti, perché le famiglie hanno perso il lavoro oppure sono in situazioni complicate e non riescono a gestire questa didattica a distanza, perché sappiamo che non hanno strumenti tecnologici per poter farlo, collegamento a internet, non hanno dispositivi per recepire le lezioni, non hanno le competenze per poter scaricare i compiti da questo registro elettronico. Insomma, ci sono tantissime situazioni e tantissimi ostacoli, perché loro, come i loro compagni di scuola italiani o non in stato di povertà, possano accedere al loro diritto allo studio, al loro diritto al conforto, al loro diritto alla relazione d'aiuto. Ecco, allora il secondo punto, dopo l'accesso, dicevamo quali strumenti, no? Quali piattaforme abbiamo a disposizione in questo cambio di didattica. La crisi, infatti, sembra un po' offrire un'occasione, diciamo, ghiotta di estensione del business e di estrazione dei dati ai grandi protagonisti, no? Del capitalismo digitale. Parlo di Google, di Apple, di Microsoft, insomma, che infatti hanno offerto prontamente, gratuitamente, nella campagna, avrete presente, Solidarietà Digitale, che è uscita l'inizio dell'emergenza, sulle pagine del sito del governo. Cioè, immaginiamo cosa voglia dire, no, per queste grandi aziende la partita delle scuole pubbliche, un business enorme. Quindi in quarantena non solo il diritto all'istruzione rischia di uscire ancora più segmentato, creando di fatto queste discriminazioni di cui parlavamo, no, tra chi può accedere alla didattica a distanza e chi invece non lo riesce a fare, ma anche vediamo un sistema educativo sempre più dipendente, diciamo, dagli operatori privati sul proprio processo di digitalizzazione. Tra l'altro, in altri stati come il New Mexico o la Germania si è deciso proprio di bandire alcune piattaforme proprietarie tipo Microsoft o Google dalle aule scolastiche, e questo perché non è definita la modalità con cui vengono profilati gli utenti e quindi chiaramente i dati. Leggiamo sul blog di Off Topic questa frase che secondo me riassume abbastanza bene questo discorso, che dice: la privatizzazione avviene su un doppio canale. Da una parte l'infrastrutturizzazione digitale gestita da operatori privati, imponendo l'utilizzo delle loro piattaforme proprietarie, verso cui la scuola pubblica si pone in termini di subalternità e dipendenza. Dall'altra parte il rapporto docente-studente mediato da canali che anzitutto sono mezzi di estrazione dati. Oltre a questo aspetto, mi preme sottolineare che mi sembra ci sia anche un abuso dell'online, quando per esempio leggevo l'altro giorno che a Milano da oggi, da lunedì, si sperimenta la didattica online per nidi e materne. Ora, io sono sempre d'accordo sulle sperimentazioni, soprattutto tecnologiche, ma sarebbe bello che chi le propone abbia la vaga idea di cosa voglia dire mettere insieme 25 bambini di 3 anni su una videoconference. In molte di noi che hanno figli e che stanno sperimentando questa situazione poco piacevole per la prima volta, diciamo, quello che insomma, il desiderio che verrebbe è un po' simile a quello che si vede nella scena del film Arancia Meccanica, quando il protagonista è obbligato a non chiudere gli occhi, no, davanti ai contenuti video violenti. Ecco, la stessa cosa la farei con l'audio di queste videoconferenze, infilando una cassa K8 nella stanza di queste persone che fanno le proposte. Gianni stacco fenomenale, tra me tutte quelle puttane. Non la do per dare, pensano sia mutante. Quanta strada devi fare per vedermi in mutande? Con lei no, ehi, ehi, ehi. Con lei no, ehi, ehi. Amica mia, anche da vestita c'è il culo più grande. Del mio facile competere coi cessi a pedale. Come me, ehi. Il volto storto da un lato, il culo grosso ma piatto. Ma la solitudine è un virus che non prendo mai, nemmeno se mi brucia se divento gas. Con solo la voce riesco a fare hype. Allora dimmi che cosa di strano, dimmi dai. Hey lover, ma serve liberarsi dalle gonne, perché la musica rappia c'ha gli uomini. Non basta la voce, la penna, lo stile, il cuore in gola alla fine. Forse no, ehi, ehi, ehi. Forse no, ehi, ehi. Le vetrine social sono le vetrine d'Amsterdam. Le vetrine social sono le vetrine d'Amsterdam. Fai quel cazzo che ti pare, lady. Tanto questa Italia, lady. Vede le ragazze come bambole gonfiabili. Fai il cazzo che ti pare, lady. Tanto in questa Italia, lady. Il sesso non è arte, è solo pane per fanatici. Sarebbe bello però che un ragazzo mi vedesse nuda per la prima volta senza precedenti strani. Che magari con Photoshop, con qualche punto di luce, in più le cosce più belle di quelle reali. Hey lover, ma serve liberarsi dalle gonne, perché la musica rappia c'ha gli uomini. Ni non basta la voce, la penna, lo stile, il cuore in gola alla fine. Forse no, ehi, ehi, ehi. Forse no, ehi, ehi. Hey lover. Allora, la mia esperienza insegnando a distanza. Ma io insegno all'università e ho una posizione strutturata anche se a termine, cioè di 3 anni, però insomma non sono docente a contratto ma sono ricercatrice, quindi questa fa la differenza. E quindi è per questo forse che non è molto, cioè abbastanza positiva l'esperienza in sé della docenza a distanza in questo corso, in questo mese. Soprattutto perché l'ateneo in cui lavoro aveva già una piattaforma per la didattica a distanza che funzionava e ha funzionato molto bene, sta reggendo, e penso anche per l'impegno di chi sta lavorando nel supporto tecnico, che è super disponibile. Non so se hanno aumentato il personale, era già così carino e competente. Diciamo, ovviamente nessuno mi ha chiesto se io avevo gli strumenti di lavoro adatti per fare questa didattica a distanza, però questo è un po' dato per scontato nel mio lavoro, cioè usiamo sempre i nostri computer e lavoriamo spesso da casa, e quindi insomma, e poi l'università comunque dà la possibilità di registrare le lezioni in aula vuota nel caso, quindi dà tutti gli strumenti di lavoro nel caso. Negativo ovviamente che nessuno si è, non ho avuto comunicazioni né formali né informali sulla parte di lavoro aggiuntivo che rifare un corso, cioè bisogna riprogrammarlo il corso visto che non è presenziale, questo è lavoro aggiuntivo che non viene conteggiato, come tutto la didattica in generale in università non viene conteggiato il tempo di preparazione del corso, è come se non esistesse, quindi questo è un'altra parte. Nessuna istruzione generale o comunicazioni dall'Ateneo rispetto a in generale come riorganizzare il lavoro o che so, se c'è bisogno o possibilità di congedi parentali o di qualunque altro tipo o insomma indicazioni rispetto proprio a questo. Quindi via con la didattica, molta pressione per fare didattica a distanza e fare tutto bene, però poco dall'altra parte. Il corso, vabbè, per ora sono delle video lezioni. Noiose, vedremo come migliorarlo, vediamo cosa succede con gli esami. E la cosa negativa è, vabbè, insomma, il corso è iniziato a marzo, quindi non ho mai visto gli studenti, non ci siamo mai conosciuti personalmente, quindi comunque la didattica per ora, proprio dal punto di vista dei contenuti, non è proprio un grande rapporto, non c'è un grande rapporto e non ci si diverte molto. Però durerà altri 2 mesi e chissà. Si può migliorare con degli strumenti più interattivi che nel mio tempo libero imparerò. Cura, cura, cura, cura. Sono Tupac Shakura. Troia muta, muta, muta. Se no vieni punta, punta. Ape, ape, ape, ape. Pape, pape, pape, pape. Ape, ape, ape, ape. Pape, pape, pape, pape. Sull'ape di papa, papa. Sull'ape di papa, papa. Ratatatatata. Ratatatatata. Sull'ape di pacia di tutua. Dall'ape di palancio frecce. Schiaccia ste merde. Schiaccia ste merde. Fa culo la legge. Fa culo la legge. Fa culo le guardie. Fa culo le guardie. Prendo e scappo con ape di pa. Ape di pa. Ape di pa, ta-ta-ta-ta! Io sono insegnante di superiore, secondaria, insegno letteratura e storia, italiano e storia. Insegno in una scuola parificata, ma è una scuola molto sui generis perché ha una retta bassissima, quindi è una scuola molto accessibile anche come platea scolastica, è molto mista. Pur stando al centrissimo di Milano, raccoglie tanta provincia, quindi è una scuola normale, direi, come utenza, ecco, non è una scuola di fighetti assolutamente. È un tecnico, è un CAT, costruzione ambiente e territorio, quindi con alunni prevalentemente maschi. Dopo la chiusura delle scuole, dopo una settimana eravamo già a fare didattica online, quindi diciamo, ci siamo attivati prestissimo e senza grandi supporti dalla scuola, nel senso che non abbiamo avuto strumentazioni tecniche né niente, cioè più o meno una piccola infarinatura generale, poi arrangiatevi, diciamo, questa è stata la solfa, insomma. Devo dire che però, oltre ogni aspettativa, la maggior parte dei miei colleghi, come me, si sta facendo un paiolo così, quindi ci confrontiamo costantemente. Lavoriamo il triplo, quindi diciamo il primo che a bocce ferme poi mi dirà: ah, sei un insegnante, sei stato 4 mesi di vacanze, io darò una craniata sul setto nasale, proprio subito perché sto lavorando il triplo rispetto a quello che lavoravo normalmente, con gioia, nel senso che comunque amo il mio lavoro, quindi. Come dire, non mi pesa se non per esigenze pratiche, bambino e tutto, però come dire, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando tutti molto, con una risposta dei ragazzi sorprendente, perché forse vuoi questa situazione comunque particolare per tutti, così insomma inconsueta fortunatamente, c'è maggiore accoglimento, come se ci fosse maggiore anche interesse da parte dei ragazzi, maggiore comprensione, maggiore maturità. Provano a risolvere i problemi per cercare di creare le connessioni, cioè, insomma, si stanno comportando in maniera veramente matura. Giro giro tondo, giro giro tondo, sulla pelle di papà ho girato il mondo. Giro giro tondo, giro giro tondo, sulla pelle di papà ho girato il mondo. Ehi! Sulla pelle di papà, di papà, di papà, sulla pelle di papà, di papà, di papà, sulla pelle di papà, di papà, di papà, sulla pelle di papà. Di papà, di papà. L'ape di papà non è mai vecchia. Yeah! Sull'ape di papà tutta la merce. L'ape di papà non è mai vecchia. Sull'ape di papà tutta la merce. Ciao a tutte, io lavoro in un progetto di educazione rivolto alla primissima infanzia, ai bambini e alle bambine e a bambine dai 6 mesi ai 3 anni e con la partecipazione delle famiglie. Sono ferma dal 24 di febbraio, con la chiusura delle scuole abbiamo interrotto anche noi ogni tipo di attività, ma non essendo il nostro, diciamo, un intervento didattico e non avendo quindi obiettivi ministeriali da raggiungere, diciamo che il mio lavoro è, come dire, caduto nel vuoto dal 24 di febbraio. Dopo un primo momento di sgomento, perplessità, dubbi, abbiamo iniziato a mandare dei video e delle canzoni ai bambini e alle bambine, consapevoli del fatto che lo strumento, il cellulare, è uno di quegli strumenti che abbiamo sempre cercato di tenere fuori il più possibile dalle nostre attività e adesso ci ritroviamo a interagire con esso stesso. E, facciamo videochiamate e come dire, entriamo quindi nelle case delle famiglie e cosa vedo? Vedo famiglie stanche, vedo bambini felici perché comunque sono con la mamma e il papà. E a quest'età, in effetti, parlo di 0-3, è comunque una sicurezza stare con loro. Vedo mamme devastate dalla stanchezza, probabilmente il lavoro e cura dei figli non sono conciliabili all'interno delle mura domestiche. E che altro, un'altra, sicuramente a questo punto, dopo un mese, la grande paura è la mia condizione economica. Ho un contratto a tempo indeterminato e tendenzialmente potrei accedere al contributo della cassa integrazione in deroga, ma non se ne capiscono le tempistiche e non lavorando per il profit, sono molto preoccupata perché non ci sarà nessun datore di lavoro che mi potrà anticipare rate di cassa integrazione. E questa sì è una grande paura, insieme alla paura di non riprendere a lavorare perché altre voci che girano è che appunto la scuola riaprirà a settembre e quindi mi chiedo come reinserirmi nel mondo nel caso finisca anche la quarantena, non lo so. Ho tanti dubbi e tante perplessità. Per fortuna come gruppo siamo attivi per cercare delle soluzioni e spero che ne troveremo. Ecco, allora un altro tema, dicevamo, oltre alla precarietà, no, di molte delle posizioni lavorative dentro e anche ai lati della scuola, è quello della mole di lavoro in aumento, cioè come ci si organizza il quotidiano tra bambini e lezioni da registrare e da produrre. È chiaro che c'è anche molto entusiasmo, no? Intorno a questa nuova didattica online, e forse penso, no? Che bisogna anche in qualche modo occupare questo entusiasmo portandolo nelle giuste direzioni, ovvero non rinunciare alla possibilità, alle possibilità che questo nuovo strumento può in qualche modo introdurre nella didattica. Per esempio, bisognerà velocemente interrogarsi e regolarizzare lo smart working, no? Se guardiamo tutto ciò dalla parte delle maestre, ovvero da una parte come proteggere la separazione tra orari di lavoro e orari di non lavoro, ma come anche non far cadere, diciamo, sul loro tempo le differenze infrastrutturali del paese in cui viviamo. Infine, secondo me c'è un discorso che forse è anche quello più importante che bisognerebbe fare, che è quello sulla libertà didattica, no? Come proteggere le differenze all'interno di un'ecologia di piattaforme che sembra molto poco variegata ed elastica, no? Ovvero che relazioni si danno, appunto, dicevamo, nel digitale attraverso queste macchine per ora molto chiuse e non modificabili. Quindi un po' la domanda è quale didattica possiamo agire lì dentro o che rimodulazioni, diciamo, possiamo sperimentare da un punto di vista metodologico. Per esempio, in questi giorni ci sono emerse anche delle idee molto belle, a mio avviso, per esempio dei canali Telegram dove i ragazzi si leggono le storie e se le scambiano, o delle radio fatte interamente da bambini. Però ecco, queste diciamo sperimentazioni allora devono far parte di un ecosistema di piattaforma meno monodirezionale, no? Ci diceva prima la prima testimonianza, quella iniziale, che tutto ciò che è fuori, che è fatto fuori dalle piattaforme predisposte, non è valutato però. Però alla fine, in fondo, diciamo, non è il ministero a dare i voti agli studenti, no? Sono le persone. E le persone dovrebbero avere il diritto di creare forme di insegnamento anche all'interno, diciamo, dell'online, no? Differenti e personalizzate. Sono un'educatrice dell'infanzia e in questo momento sto vivendo, diciamo, una fase che è di riflessione profonda e anche di autocritica rispetto al ruolo che ricopro. C'è una grossa discussione nell'ambito della scuola dell'infanzia, è una discussione in atto ed è una discussione sul continuare a mantenere dei rapporti con i bambini e le bambine della scuola in questo tempo in cui siamo tutte e tutti costretti nelle nostre case. Stiamo parlando di bambini che hanno dai 3 ai 5 anni, quindi abbastanza piccoli, bambini e bambine, e diciamo che c'è chi crede che interferire nell'intimità che le famiglie stanno vivendo in questo momento sia inopportuno. C'è chi invece è convinto che non sia professionale affatto e che questo non rispetti la privacy, che abbiamo bisogno invece di delle burocrazie, quindi anche chiedere chiedere dei permessi per poter leggere una storia, cioè proprio a livello burocratico, ecco. E chi invece è convinto, come me, che nel buon senso, diciamo, e nella continuità di ciò che abbiamo seminato con amore, stando a volte a contatto con i bambini e le bambine 6-8 ore al giorno, quindi anche più tempo dei loro genitori. Vabbè, io sono dell'idea che chi semina raccoglie, se cura. Della scuola superiore, un'insegnante precaria, per cui sto insegnando in una scuola dove non avevo insegnato prima e probabilmente non insegnerò l'anno prossimo, vedremo cosa succederà. E niente, diciamo, stiamo vivendo una situazione che non è drammatica perché tante di noi, tante, tanti, tanto di noi stanno tenendo botta. E tenere botta vuol dire in questa situazione collegarsi con gli studenti e cercare di portare avanti uno straccio di programma o anche solamente collegarsi con gli studenti e stare ad ascoltare e mettersi in una posizione di ascolto. Gli studenti, i ragazzi sono in una situazione difficilissima perché si sono visti nel giro di un giorno cambiare la loro routine e non potendo condividere questo stato con gli altri ragazzi. Loro si collegano alle lezioni e riescono a farlo, però sentono tutti il disagio grande di non poter stare a scuola e stare con i loro compagni. E poi sicuramente, essendo costretti in casa, che per questioni anagrafiche, nella migliore delle ipotesi, diciamo, per un adolescente è il posto dove non vuole stare. E quindi diciamo c'è un grande lavoro da parte dei prof in questo momento che ne dica diciamo il ministero, che ne dicano i genitori o quello che il nostro ruolo vorrebbe. Non siamo solo dei trasmettitori di sapere, ma in questo momento bisogna riuscire tramite le video lezioni e affini sia a scandire il tempo di questa permanenza in casa forzata e di questa improvvisa perdita della quotidianità scolastica, e sia a cercare di dare una semi di passare a una parvenza di normalità. Oltre a questo, si va incontro a delle lezioni che spesso sono positive, cioè si riesce a parlare dei contenuti, si riescono a fare esercizi, si riesce a portare avanti il programma. Altre volte invece bisogna contenere scatti di ira, scoppi di lacrime e situazioni comunque di disperazione che, come sappiamo, il gruppo classe, soprattutto ora che è denuclearizzato, amplifica. E niente, dopo questo, dopo questi avvenimenti, ci sono sempre dei chilometri di mail e di messaggi tra colleghi in cui si raccontano le situazioni, ognuno oltre a dover insomma affrontare queste situazioni, tira fuori anche le proprie frustrazioni, e ci sono diverse scuole di pensiero. Insomma, chi cerca di essere indulgente, vuole essere indulgente con i ragazzi, chi invece dice che devono solo imparare a far fronte a devono solo diventare grandi e imparare a far fronte alle difficoltà. Non lo so, secondo me la verità sta nel mezzo. È giusto cercare di portare avanti il programma anche per, come dicevo prima, cercare di dare un po' quest'illusione della normalità, anche per non perdere i rapporti, anche per non perdere scolari, perché come sappiamo in Italia la mortalità scolastica è una piaga. Però d'altra parte, insomma, bisogna anche dosare e comunque capire che questi ragazzi stanno vivendo un momento di altissimo stress. Ecco, prendo spunto proprio da quest'ultima testimonianza per trattare l'ultimo punto, cioè prima di chiudere, intendo, provando a spostare un po' il punto di vista, lo sguardo, diciamo, dagli insegnanti ai ragazzi e le ragazze, no? Per fare questo, volevo segnalare che in questi giorni sono usciti diversi appelli, anche articoli, su blog, anche su giornali, devo dire, sull'emergenza bambine e bambine, no? Chiusi in casa oramai da un mese e non si sa ancora per quanto tempo. Sono appelli sia da parte di genitori che di associazioni, psicanalisti, pedagogisti. Per esempio, ieri è uscito un articolo di Chiara Saracena sulla Repubblica. Secondo me la cosa interessante di questi due appelli sono, diciamo, si possono sintetizzare in due richieste principalmente. Da una parte, cioè la prima richiesta è quella di aprire questo discorso, cioè di parlare dei bambini nei decreti, no? Quindi senza per forza diventare nemici del popolo. Quindi, consci che questa situazione sarà lunga, chiedersi che cosa vogliamo fare con questi bambini chiusi in casa da più di un mese. In questi articoli si fa anche leva sulle indicazioni, devo dire una leva anche preoccupata, no? Sulle indicazioni dell'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dell'Istituto Superiore di Sanità, che infatti entrambi sottolineano invece l'importanza di fare quei 30 minuti d'aria, l'ora d'aria, come è stata ribattezzata, pena il loro stesso sistema immunitario, nonché psicologico. Allora, chiaramente cioè questo discorso nasce anche, cioè possiamo immaginare che tipo di situazioni di disagio possono avere, no, questi bambini e bambine in casa. Faccio solo alcuni esempi che, diciamo, sono quelli che ho sentito di vicinanza, eccetera, eccetera. Per esempio, madri single multate perché vanno a fare la spesa con i bambini non sapendo a chi lasciarli, piuttosto che famiglie di 5, 6 nuclei in casa da massimo 40 metri quadri, a cui è impedito anche solo prendersi una boccata d'aria sul ballatoio, che sembra un po' più un accanimento che altro, già che basterebbe appunto magari una semplice organizzazione con orari e turni. Però queste soluzioni, diciamo, suonano impossibili oggi con il terrorismo promosso in TV, che di fatto addita come principali untori i bambini, no? Cosa che è anche vera, ma è chiaro che diciamo, con i 250.000 lavoratori e lavoratrici ancora attivi nella sola città di Milano, per esempio, questa cosa deve entrare all'interno di una, diciamo, discussione, no, più articolata. Quindi, in sintesi, il primo punto di questi appelli è: la quarantena non è uguale per tutti. Smettiamola con questa narrazione, diciamo, edulcorata della quarantena tra consigli di giardinaggio e yoga. Pensiamo, per esempio, ai dati sulla violenza domestica in aumento, e ricordiamoci che in quelle stesse case ci sono anche i bambini spesso. O pensiamo, per esempio, è uscito ieri questo articolo, ai dati in aumento di TSO. La seconda cosa, e forse anche la più interessante di questi appelli, è il fatto di, come dire, parlare di questa, denunciare, no, questa presunta irresponsabilità dei genitori, ovvero i genitori in questo limbo appaiono come delle persone inadatte e incapaci di accompagnare figlio o figlia a fare due passi. Ora, è chiaro che questo trattamento è un segno molto forte, cioè che ricade anche nella relazione stessa tra genitore e figlio. Mi chiedo quale immagine dà, no, questo stato paternalista a un ragazzo o una ragazza quando gli comunica che i suoi genitori sono essenzialmente degli irresponsabili. Infatti, dopo questi appelli, benché ci siano stati 2 o 3 giorni di articoli anche a favore, è evidente che da ieri i quotidiani, diciamo quelli principali, stanno invece parlando di questa problematica con un altro, diciamo, spirito. Hanno deciso di puntare tutto sul fatto che non ci si possa fidare dei genitori. Un esempio è l'articolo di ieri su Repubblica, che chiosa la questione definendo i genitori come primi possibili trasgressori. Queen of the neighborhood, she got the hottest track in town. Ora, questi trasgressori poi sono gli stessi che fanno file disciplinatissime davanti ai supermercati, sono gli stessi che portano i cani a passeggio e probabilmente in parte anche gli stessi che fanno le corsette. Quindi, come ci diciamo che l'accanimento contro riders, joggers è una follia e che invece bisognerebbe, diciamo, concentrare la rabbia altrove, allo stesso modo l'accanimento contro genitori che fanno fare un giro ai bambini per salute o per necessità, come nel caso dei genitori single, rispettando ovviamente le misure di distanziamento indicate, è un'argomentazione piuttosto, diciamo, critica. Ma soprattutto, ancora una volta, mi viene da pensare che sono loro che stanno pagando il prezzo più alto di problemi che hanno creato altre generazioni, no? E quindi forse la domanda che pongo in chiusura è: dove ci nasconderemo quando loro stessi si renderanno conto di aver subito il disinvestimento graduale sulla sanità pubblica e le politiche poco lungimiranti che abbiamo visto in questi giorni? Penso a hashtag Milano non si ferma del nostro sindaco o alle centinaia, come dicevamo, di migliaia di lavoratori e lavoratrici ancora attivi su servizi non necessari. Basti guardare la lista che si può leggere sull'ultimo decreto. I don't need your permission. I don't want that disease. Looking through every finger that you pointed at me. Don't you like it so sexy? Wearing it like it's free. Dropping half-priced opinions, but calling me coupon queen. You got bitches, you got hoes. We the people and we know. All we want is to be accepted, but you see, no you don't. You got ideas all the same. I'm your scapegoat, feed me blame. In the back of your mind, you know you wasted time. And you're crossing lines with your, crossing line with your power. Come and spend it on me. What it means to be free is the truth. One condition can't kill my ambition. Not about if you like how I sing. Can't take my power. You got nothing on me. You're a man on a mission, but you seem to forget. You came here through a woman. Show some fucking respect. We're your bitches, we're your hoes. We the people and we know. All we want is to be accepted, but you see, no, we don't. You got ideas all the same. I'm your scapegoat, feed me blame. In the back of your mind, you know you wasted time and you're crossing lines with your, crossing lines with your power. Come and spend it on me. Power. What it means to be free is the truth. One condition can't kill my ambition. Not about if you like. Got nothing on me. On me, on me, on me, on me. Close your eyes till you can see me. Yellow polka dot bikini that they stole off her body that day. If you really want to free me, tell my mommy that she's pretty. Melanin is not your enemy. Power, come and spend it on me. Power. What it means to be free is truth, one condition can't kill my ambition. Not about if you like how I sing, can't take my power. You got nothing. Allora, prima di lasciarvi a un'oretta di playlist selezionata da Lady J, vi volevo salutare e ricordare che ci vediamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì. E inoltre, da questa settimana ospitiamo anche il giovedì le Ribelle di Zam, sempre alle 19 e sempre su Radio Lotto tutto l'anno. Vi volevo anche ricordare di contribuire alla radio inviando audio sulla nostra mail, nonunadimenomilano@gmail.com, di inviarci le vostre storie sulla quarantena, di lavoro, d'amore e di odio, e inoltre di seguirci sui canali social che sono sempre nonunadimeno_o_milano. Abbiamo anche un canale Telegram che è t.me/nonunadimenomilano e un blog che è https://nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Alla prossima. Tell me where the light is. Thank you. time. I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. This one's comes to love and affection. This one's comes to love and affection. That's why.